Capitolo 18 Giochi di luce. Durante le calde giornate di agosto, Pollyanna si recò spesso nella grande casa di Pendleton Hill, anche se aveva l'impressione che le sue visite non riscuotessero molto successo. Non che il signor Pendleton non desiderasse la sua compagnia, anzi, era lui che spesso la mandava a chiamare. Ma quando Pollyanna si trovava là, non sembrava molto rallegrato dalla sua presenza, così almeno pensava Pollyanna. Conversava con lei, è vero, e le faceva vedere tante cose strane, interessanti, libri, quadri e varie curiosità. Tuttavia, si mostrava sempre visibilmente contrariato a causa della sua infermità e sempre più intollerante verso chi osava interferire con l'andamento della sua casa. Sembrava però gradire la conversazione di Pollyanna, e a Pollyanna non mancavano mai gli argomenti. Le piaceva parlare. Ma temeva sempre di vederlo abbandonare il capo sui cuscini e di scorgere in lui quello sguardo malinconico che tanto la rattristava. Né sapeva quali sue parole potessero provocare quello stato d'animo. Quanto al gioco della contentezza e a cercare di insegnarglielo, non era sembrato a Pollyanna che fosse ancora giunto il momento opportuno. Aveva, è vero, iniziato un paio di volte ad accennarglielo, ma non era riuscita ad andare oltre la premessa. In ambedue le occasioni, John Pendleton aveva improvvisamente dirottato la conversazione su un altro argomento. Pollyanna non dubitava più che sua zia Polly e il signor Pendleton si fossero voluti bene in passato e, con tutto lo slancio del suo cuore generoso, desiderava riuscire in qualche modo a portare a quelle due vite, secondo lei tristi e solitarie, un po' di serenità. Ma come riuscire nel suo intento? Tuttavia, proprio non sapeva. Quando parlava al signor Pendleton di sua zia, lui ascoltava, a volte educatamente, a volte mostrandosi irritato, ma spesso con un sorriso ironico. Quando parlava a sua zia del signor Pendleton, o piuttosto quando cercava di parlarne, lei di solito non ascoltava a lungo e trovava sempre qualcos'altro di cui parlare. Spesso si comportava così anche quando Pollyanna parlava di altri, del dottor Chilton, per esempio, sebbene Pollyanna si spiegasse quell'atteggiamento con il fatto che era stato il dottor Chilton a scorgerla quel giorno nella veranda con i capelli sciolti e lo scialle di pizzo sulle spalle. La signorina Polly, infatti, si mostrava particolarmente ostile al dottor Chilton, come Pollyanna ebbe modo di constatare un giorno in cui un forte raffreddore la costrinse in casa. Se per questa sera non starai meglio, farò venire il dottore, disse zia Polly. Veramente? Allora spero proprio di non stare meglio per stasera, disse Pollyanna. Sarei felice che il dottor Chilton venisse a trovarmi. Ma la zia fece una faccia che stupì non poco Pollyanna. Non pensavo al dottor Chilton, Pollyanna, disse seria la signorina Polly. Il dottor Chilton non è il nostro medico di famiglia. Manderò a chiamare il dottor Warren se peggiorerai. Comunque Pollyanna non peggiorò. E il dottor Warren non fu chiamato. Sono tanto contenta, disse Pollyanna alla zia quella sera. Non ho niente contro il dottor Warren, naturalmente, ma preferisco il dottor Chilton e penso che si sarebbe offeso se non avessimo chiamato lui. Vedi, zia, dopotutto non è stata colpa sua se quel giorno gli è capitato di vederti tutta ben vestita e così carina, disse sperando di essere compresa. Basta così, Pollyanna. Non è assolutamente mia intenzione parlare del dottor Chilton o dei suoi sentimenti, disse la signorina Polly seccamente. La bambina la guardò per un momento con occhi piuttosto tristi e sospirò. Mi piaci tanto quando le tue guance si arrossano così, zia Polly, ma mi piacerebbe anche tanto sistemarti i capelli, se ti prego, zia Polly. Ma la zia aveva già lasciato la stanza in tutta fretta. Un giorno di agosto, Pollyanna era passata di buon mattino a dare un saluto al signor Pendleton e rimase assolutamente stupefatta, notando una banda di luce colorata, blu, verde, rosso e violetto, attraversare il guanciale del malato. Stette un po' a osservare, quindi disse: Ecco, signor Pendleton, un arcobaleno di luce è venuto a trovarla. Oh, com'è bello, come avrà fatto ad entrare? Esclamò radiosa. Il signor Pendleton sorrise un po' controvoglia. Quel giorno non era dell'umore migliore. Beh, penso che sia originato dal bordo sfaccettato del termometro che sta appeso alla finestra, disse con voce stanca. In questa stagione è sfiorato dal sole del mattino. Ma è bellissimo! Ed è il sole a creare quei colori. Se il termometro fosse mio, lo terrei al sole tutto il giorno. Ah, oh, quel termometro non ti servirebbe più a nulla allora, disse ridendo il signor Pendleton. Come potrebbe indicare la temperatura esatta se fosse esposto al sole? Oh, non me ne importerebbe nulla, disse Pollyanna, sempre più affascinata dalla banda colorata che attraversava il cuscino. Se potessimo vivere sempre in un arcobaleno, pensa che ci importerebbe molto della temperatura? John Pendleton rise di cuore. Osservava con curiosità le varie espressioni sul volto della bambina. Colto da un'idea improvvisa, suonò il campanello che aveva accanto a lui. Nora, disse quando l'anziana cameriera apparve sulla porta. Mi porti per favore uno dei candelabri che si trovano sulla mensola del camino del salotto sud. Va bene, signore, disse la donna osservandolo stupita. Qualche attimo dopo era di ritorno, accompagnata da un leggero tintinnio e con aria più che mai perplessa si avvicinò al letto. Erano i pendagli di cristallo che adornavano il candelabro a tintinnare in quel modo. Grazie, lo posi su quel tavolino, disse il signor Pendleton. Adesso leghi uno spago in modo che vada da un lato all'altro della finestra. Così, sì, è tutto, grazie, può andare, disse dopo che la donna ebbe eseguito le sue istruzioni. Quindi guardò Pollyanna sorridendo. Portami quel candelabro, per favore. Pollyanna l'afferrò con tutte e due le mani e glielo portò. Subito dopo John Pendleton cominciò a sfilare uno per uno i pendagli dal candelabro finché non furono tutti distesi uno accanto all'altro, una dozzina circa, sul lenzuolo. E ora, mia cara, se veramente desideri vivere in un arcobaleno, non vedo altra alternativa che creare un grande arcobaleno in cui vivere. Non ti resta allora altro da fare che agganciare uno per uno questi pendagli di cristallo allo spago che Nora ha fissato attraverso la finestra. Pollyanna non aveva appeso che tre di quei pendagli davanti alla finestra illuminata dai raggi del sole che iniziò a capire quello che stava accadendo. Era così eccitata che riuscì a stento ad appendere il resto delle gocce di cristallo, ma ben presto ebbe terminato e si ritrasse, lanciando un grido di meraviglia. Quella stanza sontuosa ma cupa era diventata una sorta di mondo fantastico. Dappertutto danzavano raggi di luce blu, arancione, verde e violetto. La parete, il pavimento, qualche mobile e perfino il letto erano coperti da tante tremolanti strisce colorate. Oh, che meraviglia! Disse Pollyanna al colmo dell'entusiasmo, quindi improvvisamente scoppiò a ridere. Penso proprio che il sole stia ora cercando di fare il gioco, lei non crede? Disse senza pensare che il signor Pendleton non sapeva nulla del suo gioco. Vorrei tanto che zia Polly, la signora Snow e tanta altra gente potesse vivere in un arcobaleno. Sono sicura che anche zia Polly non potrebbe fare a meno di sbattere le porte. Se potesse vivere in un arcobaleno come questo, non crede, signor Pendleton? Beh, da quello che ricordo, disse l'uomo ridendo, per tua zia Pollyanna sarebbe necessario molto più che qualche prisma di cristallo nella luce del sole per farle sbattere un po' di porte dalla contentezza, ma scherzi a parte, che cosa intendevi dire? Pollyanna lo fissò per un momento, quindi fece un largo sospiro. Ah, dimenticavo, lei non sa nulla del gioco. Non ti resta che parlarmene allora. Questa volta Pollyanna gli raccontò tutto dal principio, dalle stampelle che avrebbero dovuto essere una bambola a tutto il resto. Mentre parlava, non lo guardava in faccia, i suoi occhi erano ancora attratti dalla danza colorata che i prismi, attraversati dal sole, continuavano a proiettare nella stanza. Questo è tutto, disse Pollyanna con un sospiro quando ebbe terminato il racconto. E ora può capire perché ho detto che il sole stava cercando di fare quel gioco. Ci fu un momento di silenzio, poi una voce dal letto disse piano: Forse, ma sono convinto che il prisma più bello di tutti sia tu, Pollyanna. Oh, ma quando il sole mi sfiora non rifletto i suoi raggi in tutti quei colori, signor Pendleton. Ne sei sicura? Disse il malato sorridendo. Pollyanna, guardandolo, si chiedeva perché avesse gli occhi pieni di lacrime. E sì, disse. Poi, dopo qualche minuto, aggiunse: Temo, signor Pendleton, che il sole a me non faccia venire altro che le lentiggini. La zia Polly me lo dice sempre. Il signor Pendleton rise ancora, ma questa volta a Pollyanna sembrò che il suo riso fosse simile a un singhiozzo. Capitolo 19. John Pendleton fa una proposta. In settembre Pollyanna cominciò a frequentare la scuola. Gli esami di ammissione dimostrarono che era molto avanti per la sua età e presto si trovò bene ambientata in una classe di ragazze e di ragazzi suoi coetanei. La scuola, per certi aspetti, si rivelò una sorpresa per Pollyanna, che fu senz'altro una sorpresa per la scuola. Tuttavia ci fu subito un ottimo affiatamento da ambedue le parti e la bambina confessò alla zia che in effetti la scuola era una cosa viva, anche se prima aveva avuto qualche dubbio. Nonostante l'interesse per il nuovo impegno scolastico, Pollyanna non dimenticava i suoi vecchi amici. Ora, per la verità, non poteva dedicare loro tutto il tempo di prima, è chiaro, ma dava loro tutto il tempo che poteva. Fra tutti, forse quello che si lamentava di più della situazione era John Pendleton. Fu un sabato pomeriggio che le parlò a questo riguardo. Senti un po', Pollyanna, che cosa ne diresti di venire ad abitare con me? Le chiese con il solito modo brusco. Ormai non ti si vede più? Pollyanna rise. Il signor Pendleton era davvero un tipo strano. Ho sempre pensato che non gradisse avere gente intorno, disse. John Pendleton fece una smorfia. Ma era così prima che mi insegnassi quel gioco meraviglioso. Adesso sono contento di essere servito e riverito. Comunque sarò di nuovo padrone delle mie gambe fra breve e allora sarò anche di nuovo padrone in casa mia, disse agitando scherzosamente una stampella in direzione di Pollyanna. La loro conversazione quel giorno aveva luogo nella grande biblioteca. A lei dice di essere contento, ma in realtà non lo è veramente, disse Pollyanna guardando il cane che sonnecchiava davanti al fuoco. Lei sa di non giocare come dovrebbe, signor Pendleton. Il volto del signor Pendleton si fece improvvisamente molto serio. È questo il motivo per cui ho bisogno di te, piccola, per aiutarmi a fare il gioco come si deve. Vuoi venire? Pollyanna lo guardò sorpresa. Signor Pendleton, non dirà sul serio? Ma certo che dico sul serio. Pollyanna lo guardò abbattuta. Ma signor Pendleton, non posso. Lo sa che non posso. Io appartengo a zia Polly. Qualcosa che Pollyanna non capì attraversò come un lampo il volto dell'uomo che alzò il capo quasi con rabbia. Tu non appartieni a lei più di. Forse però ti lascerebbe venire da me, concluse più pacatamente. Ci verresti se lei lo permettesse? Pollyanna si fece pensierosa. La zia Polly è stata tanto buona con me, disse Pollyanna piano. Mi ha accolta quando non c'era nessuno che si prendesse cura di me, all'infuori delle signore dell'assistenza e. Di nuovo quell'espressione dolorosa attraversò il volto di John Pendleton, ma questa volta, quando parlò, la sua voce era bassa e triste. Pollyanna, molti anni fa ho voluto molto bene a una persona. Avevo sperato di poterla portare un giorno in questa casa. Mi ero illuso che saremmo stati felici qui, in questa casa, per tutti i giorni che avremmo avuto da vivere. Sì, disse Pollyanna con un filo di voce e gli occhi pieni di simpatia, ma purtroppo non l'ho potuta portare qui. Non importa per quale motivo, quello che conta è che ciò non avvenne e non c'è altro da aggiungere. Da allora questa grande casa di pietra grigia non è mai stata una vera casa. Per una vera casa ci vogliono le cure e l'affetto di una donna. La presenza di bambine e bambini, Pollyanna, io non ho avuto né l'una né l'altra. Vuoi venire a vivere con me, Pollyanna? La bambina balzò in piedi di scatto, il volto pieno di gioia. Signor Pendleton, intende dire che per tutto questo tempo lei ha avuto nel cuore quella persona? Sì, Pollyanna. Oh, come sono felice! Allora è tutto a posto, disse la bambina con un gran sospiro di sollievo. Può accoglierci tutte e due, sarà una cosa splendida. Gli occhi di Pendleton espressero un vero terrore. Tua zia Polly venire qui? Pollyanna lo guardò con aria interrogativa. Preferirebbe invece andare da lei? Disse. Certo, la casa non è così bella, però. Ma di che cosa stai parlando, Pollyanna? Chiese Pendleton. Il tono della sua voce si era fatto più pacato ora. E mi chiedevo dove andremo a vivere, naturalmente. Disse Pollyanna, sorpresa per una cosa ormai per lei tanto ovvia. Prima ho creduto che intendesse questa casa. Aveva detto qual era il suo desiderio durante tutti questi anni. Voleva la presenza di zia Polly perché ne facesse una vera casa. Un suono inarticolato uscì dalla bocca di Pendleton. Alzò una mano e fece per parlare, ma poi la lasciò ricadere stancamente da un lato. C'è il dottore, signore, annunciò la cameriera che si era affacciata alla porta. Pollyanna si alzò subito. John Pendleton si voltò verso di lei al massimo dell'agitazione. Pollyanna, per amor del cielo, non dire una sola parola di quello che ti ho chiesto, la supplicò a bassa voce. Pollyanna abbozzò un bel sorriso. No, di sicuro, come se non avessi capito che preferisci dirglielo lei stesso, rispose tutta felice. John Pendleton si lasciò cadere pesantemente nella poltrona. Cosa succede? Chiese il dottore un attimo dopo, prendendo in mano il polso di Pendleton che andava al galoppo. Un sorriso enigmatico apparve sul volto del malato. Forse una dose eccessiva del suo tonico, rispose ridendo e osservando il dottore, mentre seguiva con lo sguardo Pollyanna che si allontanava lungo il viale d'ingresso. Capitolo 20. Si svela un segreto. Di solito, la domenica mattina Pollyanna andava in chiesa e poi in parrocchia. La domenica pomeriggio poi faceva una passeggiata con Nancy. La domenica successiva alla sua ultima visita a John Pendleton ne aveva in programma una, ma mentre ritornava dalla parrocchia fu raggiunta dal calessino del dottor Chilton che si arrestò accanto a lei. Sali, Pollyanna, ti accompagno a casa, disse. Desidero parlarti un attimo. Stavo proprio per venire da te per questo motivo, proseguì, mentre Pollyanna si sedeva accanto a lui. Il signor Pendleton mi ha mandato a dire che desidera vederti nel pomeriggio, dice che è molto importante. Pollyanna si mostrò contenta. Sì, certo, ci andrò. Il dottor Chilton la guardò un po' a disagio. Non sono proprio sicuro che sia bene lasciarti andare, disse socchiudendo gli occhi per osservare meglio la bambina. La tua ultima visita è stata più un eccitante che un sedativo, signorina. Oh, ma non è stata colpa mia, disse Pollyanna ridendo. Piuttosto di zia Polly. Di tua zia? Il dottore si voltò di colpo a guardarla. Pollyanna fece un piccolo balzo di gioia sul sedile. Sì, ed è tutto così straordinariamente bello, proprio come in un romanzo. Ora, ora le racconto com'è andata, disse d'un tratto con una decisione improvvisa. Lui mi ha detto di non dire niente, ma non penso gli importi che lei lo sappia. Quello che intendeva era che non fosse la zia a saperlo. La zia? Sì, zia Polly. Naturalmente voleva essere lui a dirglielo, piuttosto che io, sa, gli innamorati sono fatti così. Gli innamorati? Non appena il dottore ebbe pronunciato quella parola, il cavallo fece un violento balzo in avanti. La mano che reggeva le redini aveva infatti dato un improvviso strattone. Sì, disse Pollyanna raggiante. C'è una parte romanzesca che io non conoscevo finché Nancy non me l'ha raccontata, e cioè che zia Polly aveva avuto un fidanzato tanti anni fa e che poi avevano litigato. Da principio non sapeva chi fosse, ma in seguito l'abbiamo scoperto, si tratta proprio di John Pendleton. Il dottore abbandonò le redini che gli caddero sulle ginocchia. Non lo sapevo, disse a bassa voce. Pollyanna si affrettò, ormai si stavano avvicinando a Harrington. Sì, è così e ne sono tanto felice. È stato tutto meraviglioso. Il signor Pendleton mi ha chiesto se volevo andare a vivere con lui, ma naturalmente non posso lasciare zia Polly in questo modo dopo quello che ha fatto per me. Poi mi ha detto tutto di quell'angelo della casa che desiderava tanto e io ho scoperto che lo voleva ancora. Ne sono stata così felice perché se desidera fare la pace con la persona che amava, tutto si sistemerà per il meglio e zia Polly e io potremo andare a vivere con lui oppure potrà venire lui da noi. Zia Polly naturalmente non sa niente perché non è stato stabilito ancora nulla. Penso che sia per questo che il signor Pendleton vuole vedermi oggi. Il dottor Chilton si alzò in piedi. C'era uno strano sorriso sul suo volto. Sì, penso che il signor Pendleton voglia proprio vederti, Pollyanna, disse mentre restava il cavallo davanti all'ingresso. Oh, c'è zia Polly alla finestra! Gridò Pollyanna. Poi, un attimo dopo, aggiunse: No, non c'è, ma pensavo proprio di averla vista. Non c'è ora, disse il dottore. Il sorriso era scomparso dal suo volto. C'era un John Pendleton molto nervoso ad aspettarla quel pomeriggio. Pollyanna, iniziò subito, ho cercato per tutta la notte di capire che cosa intendevi riguardo a questa storia, circa il mio desiderio di avere tua zia Polly qui e altre fantasie del genere. Che cosa intendevi? Ma sì, siccome una volta eravate innamorati, ero così felice che lei provasse ancora gli stessi sentimenti. Innamorati? Tua zia Polly e io? Di fronte alla sorpresa di John Pendleton, Pollyanna spalancò tanto d'occhi. Ma, signor Pendleton, me l'ha detto Nancy? Pendleton scoppiò in una risata. Davvero? Beh, devo proprio dire che Nancy non è molto informata. Allora voi non siete mai stati fidanzati? La voce di Pollyanna tradiva una profonda delusione. Mai. E non è stato tutto come in un romanzo? Non ci fu risposta. Lo sguardo irritato di Pendleton era fisso verso la finestra. Santo cielo, e pensare che stava funzionando tutto così bene, disse Pollyanna quasi singhiozzando. Sarei stata tanto contenta di venire ad abitare qui con zia Polly. E ora non vorrai più venire? Chiese Pendleton voltandosi a guardarla. No, di certo, io sono di zia Polly. Pendleton Prima che tu fossi sua, Pollyanna, tu eri di tua madre ed erano il cuore e la mente di tua madre che io avevo desiderato tanti anni fa. Di mia madre? Sì, non volevo dirtelo, ma forse è stato meglio così dopo tutto. Il volto di John Pendleton si era fatto molto pallido e parlava con evidente difficoltà. Pollyanna lo fissava, sembrava spaventata da una simile rivelazione. Amavo la tua mamma. Ma lei non mi ricambiava e dopo qualche tempo se ne andò con tuo padre. Solo allora mi resi conto di quanto importante fosse stata per me. Improvvisamente il mondo mi divenne strano e... Ma lasciamo perdere. Per molti anni sono stato bisbetico e scostante con tutti e sebbene non fossi vecchio, non ho ancora 60 anni, tutti mi ritenevano tale. Poi un giorno, come uno di quei prismi che ti piacciono tanto, sei entrata delicatamente nella mia vita e hai illuminato la mia stanca esistenza appassita con la tua radiosa personcina. Quando, dopo qualche tempo, ho saputo chi eri, avevo deciso di non vederti più, mi ricordavi troppo tua madre. Ma poi sai anche tu com'è andata a finire. Dovevo farti venire ancora e ora vorrai che tu rimanessi qui per sempre. Vuoi stare qui da me, Pollyanna? Ma signor Pendleton, io... Cezia Polly! Gli occhi di Pollyanna erano pieni di lacrime. Pendleton fece un gesto di insofferenza. E a me? Non pensi? Come potrò essere ancora felice senza la tua compagnia? Non sai che solo dopo che sei stata qui ho quasi provato di nuovo il desiderio di vivere? Se ti avessi qui come se fossi mia figlia, sarei completamente felice e cercherei di renderti contenta in ogni modo. Non lascerei nessun tuo desiderio inappagato. Tutto il mio denaro, fino all'ultimo centesimo, sarebbe impiegato per renderti felice. Pollyanna lo guardò turbata. Ma come, signor Pendleton? Come potrei permettere di spendere per me quel denaro che ha messo da parte per le missioni? Pendleton arrossì, cercò di parlare, ma Pollyanna lo interruppe. Inoltre, chiunque sia ricco come lei non ha bisogno di me per essere contento. Può rendere felice tanta gente donando loro quello di cui necessitano. Allora non potrà fare a meno di essere felice quanto loro. Pensi solo ai prismi di cristallo che ha regalato alla signora Snow e a me e alla moneta d'oro che ha dato a Nancy per il suo compleanno e... va bene, lasciamo perdere. La interruppe Pendleton. Il suo volto era molto rosso ora e non c'era da stupirsene. Non era stato certo per la sua generosità che John Pendleton si era fatto conoscere, soprattutto in passato. Sono tutte sciocchezze, non erano nemmeno grandi cose, ma a valorizzarle sei stata tu. Tu le hai donate, non io. Sì? Proprio tu, insistette di fronte allo sguardo incredulo della bambina. E tutto ciò dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, di come io abbia necessità di te, mia piccola amica, concluse con un tono di voce raddolcito, nella speranza di ottenere quanto chiedeva. Semmai dovrò giocare al gioco della contentezza, Pollyanna, dovrei essere tu a giocare con me. Il volto della bambina si fece pensieroso. Zia Polly è stata tanto buona con me, cominciò Pollyanna, ma Pendleton la interruppe bruscamente. La solita espressione irritata era rispuntata sul suo volto. Del resto l'intolleranza era stata troppo a lungo una nota del suo carattere per poter sparire completamente. Buona con te? Scommetto che non desidera averti nemmeno la metà di quanto lo desidero io, protestò. Ma come, signor Pendleton? Zia Polly è contenta, ne sono sicura di avere... Contenta? Sbottò Pendleton, perdendo del tutto la pazienza. C'è da giurare che la signorina Polly non sappia essere contenta di niente. Oh, certo, fa il suo dovere, lo so bene. Per lei il dovere è legge, te lo posso dire io perché l'ho imparato a mie spese. Devo ammettere che non siamo stati in buoni rapporti durante gli ultimi 15 o 20 anni e la conosco bene, tutti la conoscono. E non ha quella disposizione alla contentezza che tu credi, Pollyanna. Non sa come si faccia a essere contenti. Per quanto riguarda la mia richiesta, domandale se è disposta ad affidarti a me e vediamo quello che dice. Vorrei tanto che tu venissi a stare con me, bambina mia. Lo vorrei tanto, concluse con la voce rotta dall'emozione. Pollyanna, alzandosi, fece un profondo sospiro. Va bene, glielo chiederò, disse seria. Naturalmente non intendevo dire che non mi sarebbe piaciuto venire a vivere con lei, signor Pendleton, ma... Pollyanna non completò la frase. Ci fu un attimo di silenzio, poi soggiunse: Meno male che non le avevo ancora detto niente di tutta questa storia. John Pendleton sorrise appena. Sì, meno male che non hai detto niente, Pollyanna. Ne ho parlato solo al dottore, ma lui naturalmente non conta. Al dottore? Gridò John Pendleton voltandosi di scatto. Non al dottor Chilton, spero. E a chi se no? È stato quando mi ha detto che lei desiderava vedermi. Per tutti i... disse adirato Pendleton, lasciandosi di nuovo cadere sulla sedia. Poi, spinto da un'improvvisa curiosità, chiese: E che cosa ha detto il dottor Chilton? Pollyanna aggrottò la fronte pensierosa, ma... Non ricordo, non molto credo. Ah sì, ha detto che potevo ben immaginare perché mi volesse vedere. Oh, veramente? Domandò Pendleton e Pollyanna si chiese come mai facesse quell'improvvisa risatina.